Pensiere che a mattina va a farga, ma te fa capire perché si dice sì. Io te volessero tutte strade do mondo per te fa cagnare e spostare colore senza aver paura, senza aver paura. Ma basterà una di sole e con caruna che te vera a pigliare, ma basterà una di sole a poter parlare. Ma basterà una di sole e con caruna che te vera a pigliare, ma basterà una di sole a poter cantare. Io te volessi un po' di luce in una stanza per te fa duca, senza cadere, per te fa sapere. Io te volessi da tutto quello che riesco a inventare, per te fa ridere così, per me fa capire, per me fa capire. Non basterai un di sole e con caruna che te vera pignò, ma basterà una di sole per poter parlare. Ma basterà una di sole e con caruna che te vera pignò, ma basterà una di sole per poter cantare. Basterai una di sole, e con caruna che te verrà pignò, ma basterai una di sole.